rumori dell'acqua, proprio come questa water noise di questa sera, notte, giorno, insomma, fate un po' voi di questa puntata di 451 frammenti sonori. Abbiamo ascoltato da Canti Magnetici, questa nuova etichetta di Andrea Penso insieme ai due Cannibal Movie, come vi dicevo prima. Carlos Casas, artista spagnolo che si cala di fatto dentro la cava, dentro lo puzzo, no? Quindi nel pozzo, anche inteso in senso largo, appunto come cava vicino all'euca, e appunto trae materia sonora da questo avvenimento, anche poi di fatto evento e fisico anche di una certa importanza, di un certo anche impegno poi, e ne ricava un lavoro veramente molto molto suggestivo. Con appunto questi trattamenti acquatici, l'acqua che evidentemente qua crea un ambiente sonoro, ed è dentro questo ambiente sonoro ricreata in una maniera magari differente, appunto il suono abbiamo sentito prima parte con una sorta di loop quasi ritmico, per poi trovarsi in una dimensione invece più potente, rumorista, più d'atmosfera, ma l'atmosfera anche, appunto, prima dicevamo sinistra, no? Ma beh, il sinistro, appunto, del Ringo, magari, che prima citavamo, in questo senso, insomma, il rimando filmico, il rimando, insomma, dello sconosciuto, di quello che è, appunto, l'immersione in zone di fatto non vissuta, oppure vissuta molto parzialmente, no? Come quello della cava, del pozzo. E tra l'altro Carlos Casas, ma tanto per citare, insomma, nome piuttosto grosso, anche una grossa collaborazione con Prurient, uno split molto interessante, adesso dentro Canti Magnetici. La prossima settimana avremo modo anche di ascoltare il terzo personaggio, dopo appunto aver ascoltato Andrea Penso questa sera con Ritorno all'Acqua e Carlos Casas con Vucca dello Puzzo, e ascolteremo la prossima settimana Matthew P. Hopkins con Fog Study. Quindi anche qua una trattazione dell'ambiente, e se vogliamo anche qua dell'acqua, però insomma è in forma di nebbia. Evocatività con casa se ne abbiamo trovata veramente tanta. Altrettanto con un maestro potremmo dire trattamento sonoro quasi a forma di sfida con i suoi aube giapponesi, con questa formazione che da sempre sperimenta su quello che è il fenomeno acustico sonoro di tutti i tipi, cioè nel corso degli anni hanno sperimentato con tutto quello che poteva essere suono, oggetto sonoro, e quindi anche composizione, o a volte anche decomposizione, poi se pensiamo a certi lavori di remixaggio fatti da aube, ad esempio ricordiamo quello splendido su Maurizio Bianchi, o comunque di quasi far uscire anche qua quello che magari è coperto, quello che non è esattamente appunto visibile, un esoterismo potremmo dire, e in questo caso quello dell'acqua, appunto dentro questi rumori acquatici di questa sera di 451, fuori quindi da futuri rumori che abbiamo appunto appena lasciato con Casas, e dentro Akifumi, anzi Nakajima, personaggio, insomma, dentro appunto gli Aube. Ascolteremo anche dopo, in finale di trasmissione, appunto gli Aube, un altro lavoro sull'acqua, però in questo caso un lavoro proprio solista suo, Water 1990, c'è anche uno Water 1991. E sentite qua cosa riesce veramente a creare e a ricreare, appunto, Nakajima, un suono che da acquatico diventa foriero di grande anche appunto suggestione e evocativo, come anche acqua, come senso appunto vitale, se vogliamo anche vitalistico, che esce appunto da questi pezzi che andiamo a trarre dal suo bel lavoro, Water 1990, appunto il primo volume, se vogliamo considerarlo tale, dedicato appunto all'acqua e al trattamento che è assolutamente singolare appunto del suono di questa. In realtà quello che abbiamo ascoltato era proprio il lavoro di Aube, che ho anticipato rispetto a Nakajima, che invece va a chiudere appunto questo Water Noise per questa sera. Come dicevo prima, insomma, o altri momenti delle 24 ore, dipende appunto se lo ascoltate tramite 451 frammentisonori.noblogs.org. E abbiamo ascoltato in successione, quindi mi correggo, Aube prima da Across the Water, appunto dentro l'acqua di fatto, con tanto anche di rumore, che veniva però mixato poi con un altro lavoro di Aube, Aqua Syndrome, lavoro più recente rispetto a Cross the Water, che proveniva dagli anni 90. E qua insomma c'è anche una certa più intelligibilità rispetto al trattamento dell'acqua, c'è anche un senso insomma ritmico della ritmicità, poi del cadere, del gocciolare, no? Che si sente anche in maniera piuttosto appunto anche piacevole, e rispetto invece a un suono urticante che abbiamo ascoltato come crescendo appunto dentro Across the Water, rispetto invece a Aqua Syndrome. E appunto concludendo questo Water and Noise per questo 451, rimandandovi chiaramente alla prossima settimana per un'altra esperienza, un altro momento, vediamo o sentiamo anzi di che tipo, e lo scoprirete soltanto ascoltandoci, così parafrasando e un po' storpiando qualche un altro. E sì, quindi dentro il lavoro a questo punto quello proprio di Nakajima, che comunque ha fatto pochissimo, tra l'altro il nome proprio, forse perché è veramente dentro, è impegnatissimo con Aube, che tuttora insomma pubblicano diversi lavori, tra l'altro di quasi tutti di grande qualità, di fattura veramente eccezionale, proprio nella lavorazione di quello che non è neanche poi per certi versi lavorabile in maniera musicale o sonora, chiamiamola così, visto che qualcheduno magari si potrebbe indispettire, non chi ci segue da tempo, come termine musicale, come termine appunto compositivo, ma poi di fatto lo è, come il rumore, come qualcuno preventivava così in maniera visionaria, lanciava, è diventato di fatto insomma la principale materia sonora di questi ultimi anni. Anche chi poi di fatto non è, come dire, non vive direttamente questa realtà, poi la vive indirettamente, perché comunque a parte i rumori concreti che ogni giorno insomma ascoltiamo e sentiamo, poi di fatto insomma tutta o buona parte della musica che ascoltiamo è fatta di rumore, lo è sempre stato poi d'altronde. Ma questo vabbè è un discorso un po' più largo. E concludendo con Kimfume Nakajima, andiamo a prendere appunto da Water 1990, come preannunciavo prima, per chiudere questo liquido, questo 451 liquido, ma non nel senso di Bauman, ma di un vissuto sonoro, un vissuto anche pericoloso, come abbiamo ascoltato in alcuni casi, con proprio immersioni dentro situazioni al limite, ecco, come quella appunto della cava, del pozzo. Vi rimando, come dicevo prima, al prossimo 451 frammenti sonori, 451 evidentemente futuri rumori, e anche al prossimo 451 intersezioni. Ciao da Max Macchia e Kifumi Nakajima, per darvi insomma un saluto, non dico appunto buonanotte perché ripeto, ci potrebbe essere qualcuno che è fuori da questo orario, appunto in un'altra dimensione. Akifumi Nakajima, ripeto. Alla prossima.